got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Meadow, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, se è per questo, mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nudezzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Bentornati da Valentina Furlanetto, indovina chi viene a cena, come sempre anche questa puntata introdotta dalla musica del film dal quale prendiamo spunto, indovina chi viene a cena, che parla di identità, di migrazione, anche di razzismo e problemi che la presenza di stranieri può comportare, e anche da un dialogo, quello dei soprano, e ne sentirete altri come abbiamo iniziato a fare per questa nuova stagione di indovina chi viene a cena, tratti da serie televisive, da film, che parlano appunto dell'identità e della migrazione, e talvolta anche della cucina, che è l'altro grande tema della nostra trasmissione. Sono ormai quasi 2 mesi dal terribile terremoto che ha colpito il centro Italia. La situazione è ancora difficile ad Amatrice, Arquata del Tronto e nelle altre cittadine colpite fra Lazio e Marche. Ma ad alleviare le sofferenze, a prestare aiuto nelle aree colpite dal sisma, erano accorsi 2 mesi fa anche i membri di diverse associazioni italo-cinesi. Noi ci siamo molto incuriositi per questa cosa e li abbiamo cercati. E stasera sono con noi il presidente e la responsabile comunicazione dell'Unione Giovani Italo-Cinesi. Allora do il benvenuto a Franca Ong. Grazie per essere con noi, Franca. Grazie, buonasera. A voi, buona serata. E Francesco Xia, presidente. Buona serata anche buonasera. A te. Allora, so che ci avete portato proprio per questa vostra partecipazione in occasione degli aiuti ai terremotati un piatto un po' particolare, perché noi ceniamo un po' tardi, ma amiamo sempre avere delle sorprese culinarie dai nostri ospiti. Cosa avete portato? Avevamo pensato, proprio per l'occasione, di preparare una amatricina. Sarebbe una matriciana classica, però preparata da un italo-cinese. Insomma, un omaggio da parte vostra alla popolazione di Amatrice. Lo sapete, erano anche nate molte iniziative, tra cui anche le Amatriciane Solidali. Anche voi avete voluto fare un omaggio alla popolazione colpita che siete andati ad aiutare. Come è nata, Francesco, quest'idea di andare ad aiutare le popolazioni terremotate? Abbiamo sentito l'esigenza di dare contributo alle popolazioni colpite, e con la Misericordia di Firenze ci siamo messi in un giorno e mezzo, abbiamo trovato il modo sia di andare giù, di portare il cibo che serviva, comprare la roba che serviva e portarla direttamente nei luoghi del terremoto. Siete partiti subito? Dopo 2 giorni. C'è da dire che sono 6 le associazioni italo-cinesi che hanno partecipato all'iniziativa. Allora, citiamo l'Associazione Generale dei Cinesi a Firenze, l'Associazione Imprenditori Cinesi, l'Associazione Donne Cinesi a Firenze, l'Associazione Wen Cheng del Centro Italia e l'Associazione di Ricerca Culturale Italo-Cinese Yang Wang, supportate tutte dalla Misericordia della Toscana, oltre che voi. So che ha avuto un ruolo particolare un parroco, no? Esatto. Sì, noi abbiamo uno stretto rapporto questo con il parroco, l'ex parroco di San Donnino, Don Momigli, che è sempre stato attivo nelle questioni interculturali cinesi della zona fiorentina, e grazie alle sue conoscenze siamo riusciti ad avere subito un approccio diretto con la Misericordia per organizzare questi aiuti. Sono arrivati ad Amatrice in quei giorni 5 furgoni carichi di aiuti, quindi insomma un aiuto concreto alla mensa soprattutto, no Franca? Sì, sì, esatto. Abbiamo appunto preso la lista dei beni necessari per provvedere a un mese e ci hanno fornito questa lista e abbiamo fatto la spesa direttamente insieme alle altre 5 associazioni, in totale 6 associazioni. Quindi avete fatto la spesa per garantire il funzionamento della mensa per i terremotati per un mese. Esatto, e in più diciamo dei volontari hanno raccolto anche coperte, beni di prima necessità, quello che riuscivano a raccogliere proprio di spontanea volontà da parte dei cittadini cinesi nell'area di Osman Noro. Big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around, maybe buy me some new string. Francesco, questa iniziativa si è conclusa o va avanti? Sì, stiamo valutando se ora che viene l'inverno di fare un ulteriore intervento per le zone colpite. Per adesso abbiamo fatto già una raccolta di soldi anche, che abbiamo consegnato alla Protezione Civile della Toscana per la ricostruzione. E stiamo valutando qui per le feste di Natale se fare un'altra iniziativa similare. Anche una raccolta non indifferente, perché abbiamo coinvolto diverse persone anche facendo dei punti raccolta verso inizio settembre. Ha raccolto circa sui 40-46 mila euro che abbiamo dato in mano al presidente dell'ANCI Toscana, era presente, e il responsabile della Toscana, della Protezione Civile e l'assessore alla Protezione Civile Toscana. E voi personalmente siete andati in quelle zone? Sì, sì, lui ha anche guidato uno dei camion. Sì, perché siamo partiti con 5 camion, dove ogni camion era guidato da nostri associati, e io indirettamente sono arrivato fino ad Amatrice. È stata una cosa che ha colpito parecchio. Penso la cosa che mi ricorderò di più sarà il silenzio di quando sono entrati nella zona, proprio dove si vedevano che le case erano distrutte, il silenzio che era un silenzio assordante. C'era rumore, però si vedeva tra la gente che tutti erano lì con un sentimento molto forte, molto con una partecipazione al dolore che era molto forte, molto, molto presente. Oh, Ci fermiamo brevemente, ma torniamo a parlare di comunità cinese in Italia, a Firenze, ma anche dell'apporto che queste comunità hanno avuto nel assicurare degli aiuti dopo il sisma in centro Italia fra pochissimo. La prossima volta verrete a cena da noi. Sentirete il mio caviale alla cuillère, sono certo che vi piacerà. E Floranza ci preparerà la sua macedonia con vodka e acquavite. Sì, sì, sì, sì. La sua sensibilità si accorda con la sua coscienza umanitaria. Ma se lei vuole rifiutare le idee acquisite, allora bisogna che le sostituisca con una morale personale. Raffaele. Sono Giugete Lesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giugete Lesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datemi una bella calmata! Vi invito alla riflessione! Fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro! Ve lo giuro! Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo con due rappresentanti della comunità cinese in Italia, in particolare col presidente dell'Unione Giovani Italo-Cinesi e con la rappresentante dell'Associazione per la Comunicazione, Franca Ong e Francesco Xia. Si dice sempre che la comunità cinese è una comunità chiusa. Questa iniziativa, insieme a altre, dimostrerebbe il contrario, no Franca? Infatti, allora, il problema è che è chiusa dal momento in cui spesso c'è il problema della lingua. Noi che siamo, entrambi noi siamo nati in Italia, siamo cresciuti, abbiamo fatto le scuole qui in Italia, ci siamo rapportati fin dalla nascita con la realtà italiana, per cui non si può scappare da questa cosa e quindi per forza bisogna fare quasi da ponte tra le due realtà, e per cui ci siamo sentiti in dovere di costituire questa associazione Unione Giovani Italo-Cinesi, appunto per fare da tramite tra di queste, la comunità cinese che di per sé è abbastanza sì, chiusa. Francesco, la vostra associazione si è costituita proprio pochi mesi a ridosso dei fatti di Sesto Fiorentino del 29 giugno, no? Quando scoppiarono dei disordini che misero anche in difficoltà le forze dell'ordine, le istituzioni che avevano difficoltà a comunicare con la comunità cinese di Sesto Fiorentino, di Firenze. Si era creata una situazione di conflitto abbastanza forte, no? Che cosa era avvenuto? La nostra associazione è nata proprio qualche ora dopo i fatti di Sesto Fiorentino, perché io, il vicepresidente, tanti membri eravamo proprio lì in piazza e sentivamo che c'era bisogno di creare un percorso nuovo di integrazione e anche di comunicazione tra le istituzioni. Ma che cosa era avvenuto, per chi non lo sapesse? Cosa era successo? Lì è nato tutto da un tafferuglio che è successo su un controllo. Ma la confusione che è successa dopo era sentire la mancanza delle istituzioni nella zona, perché la gente si sentiva tartassata ma non protetta dalle istituzioni, perché ogni giorno i cinesi sono soggetti a furti, rapine. La gente sentiva che le forze dell'ordine erano presenti solo quando c'era bisogno di fare un controllo e di multare qualche ditta. E noi siamo nati proprio dopo questo fatto per cercare di fare un trade union tra le istituzioni e la comunità cinese, che è una comunità molto presente a Firenze, un punto di forza produttivo anche del Made in Italy. Quello che viene contestato alla comunità cinese, soprattutto della zona appunto di Firenze, ma in generale un po' in Italia, è quello di difendere l'abusivismo. Francesco. Ma guardi, secondo statistiche dell'ASL della Toscana, il 60% delle ditte controllate sono regolari, il 60%, e il 90% delle ditte non regolari si adeguano. La comunità cinese è in evoluzione. Sì, sta anche a noi come Unione Giovani Italo-Cinese appunto cercare di mediare, cercare di sensibilizzare la comunità cinese ad adeguarsi meglio al sistema, perché a loro mancando proprio il mezzo comunicativo non è sempre facile, anche per un italiano non è facile adeguarsi alle normative, figuriamoci a uno che non capisce l'italiano. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working meal to meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the poison takes away the pain, up and up, up and up. Saying, we're gonna get it together right now. Stavamo parlando con voi della situazione, diciamo, di abusivismo invece che di legalità all'interno della comunità cinese, che è un'accusa che viene spesso riprodotta anche dai media. Penso a una paginata del Corriere della Sera di pochi giorni fa in cui si parlava del modello di Prato, in particolare come il virgolettato era un'assenza di diritti, l'estraneità di cultura sindacale e illegalità strutturale, e ci si faceva riferimento a quel tragico rogo del dicembre 2013 che fece 7 morti proprio nella comunità cinese di Prato. Franca, so che questo articolo vi ha fatto un po' arrabbiare. No, diciamo che il giornalista è stato molto ponderato, ha analizzato bene la situazione della comunità cinese in tutta Italia, soltanto che abbiamo trovato che non è stato altrettanto oggettivo riguardo la situazione pratese. Secondo me è stato un po' buttare fango. È cambiato qualcosa dal 2013, da quel incendio che portò alla morte di quegli operai? Decisamente, anche a Prato si stanno muovendo. Francesco, spostandoci dalla Toscana al resto d'Italia, in particolare a Milano, dove c'è un'altra comunità molto forte cinese, lei sa che un paio di giorni fa è arrivato a Milano il Dalai Lama per avere la cittadinanza onoraria, e c'è stata una protesta da parte della comunità cinese milanese, chiaramente perché vedono in questa onorificenza un appoggio a una personalità che secondo la Cina porta avanti un'attività separatista, no? Per quanto riguarda il Tibet. Sì, e voi sì, come avete preso questa visita del Dalai Lama? Capisco i compaesani che sono andati a protestare contro la cittadinanza onoraria per il Dalai Lama, ma non per il fatto che sulla figura personale del Dalai Lama o su quello che rappresenta, ma il fatto che rappresenti un sentire separatista di dividere il paese, penso sia una cosa deleteria per ogni paese. Se in ogni Stato ci fossero movimenti separatisti, penso che lo Stato si smembrerebbe dopo 3 giorni. Franca, io so che voi ci tenete molto e mi sembra anche giusto parlarne, perché è un esperimento molto interessante, a parlare di questo video che avete postato sulla vostra pagina Facebook dell'Unione Giovani Italo-Cinesi, l'esperimento Sono cinese italiano ma abbracciami come essere umano. Un ragazzo della comunità cinese si è messo bendato in Piazza della Signoria a Firenze con il cartello a fianco Sono cinese, sono italiano, ma abbracciami semplicemente come un essere umano, e avete cercato di capire quante delle persone che passavano si avvicinavano e effettivamente abbracciavano questa persona straniera per loro, no? Com'è andato l'esperimento? Che risultati avete avuto? Beh, è stato un grandissimo successo, non ce l'aspettavamo certamente. Infatti è da ringraziare assolutamente Massimiliano Zhang, che si è offerto volontario a fare questo esperimento, anche perché non è per niente semplice bendarsi in mezzo a una città come Piazza della Signoria, in cui passano migliaia di persone al giorno. Ci vuole un atto di fiducia da entrambe le parti. Sì, un grandissimo atto di fiducia, perché devi stare lì bendato con le braccia aperte ad accogliere chiunque. E è stato molto coraggioso. Temevamo appunto che potesse stare lì per ore e ore senza che nessuno si avvicinasse. Invece non è stato così, anzi vari passanti di varie nazionalità, varie etnie, varie età, sia sesso femminile che sesso maschile, si sono avvicinati, hanno letto, si sono anzi complimentati della nostra iniziativa. E dal video si vede proprio quanto l'abbraccio sia nato spontaneamente da parte loro, e questo anche se il video dura poco più di 2 minuti, però molte persone che sono sensibili anche in soli 2 minuti sono riusciti a commuoversi. Francesco, da dove provengono i tuoi genitori? I miei genitori vengono dalla Cina, dalla regione dello Zhejiang. Sono qui dagli anni 80, quindi hanno da tanti anni qui in Italia. E anche loro si sentono più abituati a stare qui in Italia che in Cina, anche se una volta l'anno vanno a trovare il loro paese. Io personalmente mi sento molto combattuto, perché dire sentirmi cinese o italiano mi trovo parecchia difficoltà a dire cosa mi sento di più. Mi sento un cittadino del mondo più che altro, perché alla fine le amicizie ce l'ho tutte qui in Italia, e anche i parenti stessi ce l'ho quasi tutti qui in Italia, quindi mi sento uno tra due mondi. Franca, e tu vuoi raccontarci invece qual è l'origine dei tuoi genitori? L'origine è molto simile a quella di Francesco. Dalla stessa regione provengono? Sì, dalla stessa regione. I miei genitori addirittura si sono conosciuti in Italia negli anni 80. E quindi sono nata e cresciuta qui. Anche io a 18 anni ho scelto di diventare cittadina italiana. Diciamo che da piccola, mentre facevo le scuole materne, elementari, medie, tendevo un po', diciamo, a mettere da parte la mia identità, le mie radici cinesi, anche perché chiaramente nell'adolescenza tutti si cerca di integrarsi con la classe, con i compagni, con gli amici. E poi col crescere dai 18, 19, 20 anni dopo aver preso la cittadinanza italiana e dopo aver fatto diversi viaggi anche in giro per il mondo, mi sono accorta appunto della ricchezza che offriva la cultura cinese, per cui piano piano sto ancora riscoprendo, sono andata anche in Cina diversi viaggi per studiare il cinese e sto riscoprendo questa ricchezza e trovo che sia una cosa bellissima poter confrontare un po' tutte le culture per trovare in ognuna di esse qualcosa di buono da assimilare. La cucina cinese è legata alla filosofia e alla medicina. Distingue gli alimenti yin, femminili, umidi e teneri, dunque rinfrescanti, come i legumi e i frutti, e gli alimenti yang, maschili, fritti, speziati o a base di carne. Un pasto deve dunque non soltanto armonizzare i gusti, ma trovare un equilibrio tra il freddo e il caldo. Un'altra caratteristica della cucina tradizionale cinese è l'assenza di prodotti lattieri, a causa di un'intolleranza al lattosio che esiste in numerosi paesi asiatici. La successione cronologica dei piatti che si conosce in Italia e negli altri paesi occidentali, nella cucina cinese è sostituita da una ricerca di equilibrio, a partire dai 5 sapori di base: dolce, salato, acido, amaro, piccante. Grazie per essere stati con noi a Franca Ong, responsabile comunicazione dell'Unione Giovani Italo-Cinesi, e a Francesco Xia, che è presidente di questa associazione. Grazie e grazie, buona serata. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per essere stati in ascolto questa sera di Indovina chi viene a cena, un'altra puntata sabato prossimo, vi aspettiamo. Intanto ringrazio in regia per la collaborazione tecnica Carmelo Lauricella. Tutti voi per essere stati in ascolto. Se avete critiche, domande, suggerimenti, scrivetemi vifurlanetto@radio24.it. Per tutto quello che volete risentire c'è il sito internet di Radio 24, la pagina di Indovina chi viene a cena. Buona serata a tutti, ciao. You've got to give a little. That's the glory.